Belli di Gaza. Ecco qua, è finito. Che è successo? Che è partito Star Trek? Che è? Cioè, un jingle di Runtime, così a caso. Cerca su Facebook, Telegram e Instagram Runtime Radio. Mettiti in contatto con noi. Scopri il nostro palinsesto su www.runtimeradio.it. Vabbè, avrete capito insomma che è tutto un po' improvvisato questa mattina, tutto un po' di corsa, tipo alle 6.57, oh, ma io ho la diretta e allora siamo tutti corsi mentre stavamo facendo grandi pulizie di casa e così, cioè, c'è passato un po' il tempo, più questi giorni sono successi degli eventi insomma che sapevamo che dovevano succedere, quindi insomma anche stamattina non era sicuro che saremmo stati live. Però ci siamo ragazzi, in un modo o nell'altro, a pezzi e bocconi ci siamo per questa nuova puntata del Grande Reset. Avete sentito la nuova sigla che ovviamente dalla prossima volta sentirete solo a metà, cioè nel senso c'è un punto in cui poi andrò sfumando e ci parlerò sopra, perché noi possiamo sentire tutte le volte tutta quanta la sigla che dura abbastanza, anche se devo dire che è venuta, stavolta è venuta carina rispetto alle altre volte, un po' come quella di Walter Sbano con le orazioni della sera, pure quella è venuta bene, anzi lui ci ha fatto quella sigla finale che tra l'altro c'ha quelle sonorità un po' da jazz, canzone d'autore italiana, figa, non male, non male, ma pure la canzone di testa. Dunque, avete visto che è ritornato Marco Gualdi con la sua crew con la quale gioca Elite Dangerous, quindi ieri è uscito il nuovo episodio, il primo episodio della seconda stagione di Friendship Drive. Bello, bello, non vediamo l'ora infatti di ascoltare ore e ore di conversazione di un gioco che non conosciamo, però insomma, in realtà dai, ci fa piacere. Comunque hanno messo su un bel podcast, sicuramente per gli appassionati è interessante. È tornato appunto Walter questa settimana con le sue orazioni della sera e le orazioni della sera prima alle 6 del mattino, se l'ascoltate in replica, alle 20 di tutti i giorni tranne il venerdì, sabato e la domenica, se l'ascoltate in live ovviamente. E poi questa mattina è uscito Snap Architettura Imperfetta del nostro carissimo amico Roberto Marin, che imperterrito non ha mai fatto pausa, devo dire, tipo Leo che diceva che non avrebbe fatto pausa invece poi l'ha fatta, e Roberto Marin che non dice niente invece non ha fatto pausa, quindi complimenti a tutti quelli che hanno dato continuità a quello che è stato Runtime Radio. Noi abbiamo provato a fare quella roba con Marco Gualdi sui film brutti, nel frattempo ne ho visti anche altri quindi poi ne parleremo. È stato fatto un sondaggio su Runtime Radio chiedendo se questa cosa dei film brutti doveva diventare una cosa a sé stante, doveva diventare una rubrica fissa su Pop Corner oppure una rubrica saltuaria, e ha vinto la rubrica saltuaria, giustamente anch'io ho votato quello, perché insomma vabbè, cioè, se non ce l'hai i film brutti che non è che ti puoi imporre di vedere i film brutti, insomma già ne facciamo tante delle cose brutte che ci imponiamo e già poi ci si mette un po' la vita a fare le cose brutte, e quindi noi cerchiamo insomma di andare a fare, anche se poi a me poi tutto sommato i film brutti mi piacciono perché ci ragiono sopra e mi viene da ridere, cioè nel senso io quando racconterò questo film so che mi verrà da ridere, insomma, quindi e vabbè, comunque se volete vi recuperate tutti e 4-5 gli episodi che abbiamo fatto quest'estate sempre sul feed di Popcona, dove trovate appunto questi mini speciali dei 25-30 minuti l'uno, insomma, quindi in generale anche roba molto pillolosa che potete tranquillamente buttarvi giù. Mentre proprio parlando di sigle cazzi e mazzi, prima di parlare del fatto che la prossima settimana, che durante la prossima settimana probabilmente uscirà il regolamento per il Festival della Canzone Artificiale 2025, e dato che io e Walter ci siamo rifatti le sigle proprio con l'intelligenza artificiale, proprio qualche giorno fa stavo lavorando appunto su un'idea di una canzone rap, e lo so, l'ha già fatta sentire Walter perché l'avevo mandata insomma nel pre-season delle Reazioni della Sera, però ve la faccio risentire perché secondo me è venuta particolarmente bene. Ascolta bene, questo non è un gioco, l'Occidente brucia il mondo, ma dice che è solo un fuoco. La verità si nasconde dietro maschere di progresso, ma oggi la svelo io in questo flusso incessante. Occhi chiusi, menti chiuse, verità confuse, l'Occidente impone, le altre culture sono deluse. Cristo biondo, occhi azzurri, la bugia dipinta, ma se un nero è su Netflix la nostra razza massa istinta. Ipocrisia che scorre nelle vene della storia. Colonizziamo menti, lo chiamiamo memoria. Universalismo occidentale, una visione suprema. Nazismo leggero, democrazia è solo un emblema. Censuriamo il diverso, imponiamo il nostro credo. Il silenzio è complice, nel sangue ci si siede. Martiri supremi, piangiamo le nostre vittime. Ma i genocidi nel mondo, ah, quelle sono statistiche. Tra presaio o sterminio, un dibattito ridicolo. Mentre la Palestina muore, parliamo d'articoli. Bombardiamo per la pace, uccidiamo per la vita. La nostra logica è malata, la morale è già finita. Universalismo occidentale, una visione suprema. Nazismo leggero, democrazia è solo un emblema. Censuriamo il diverso, imponiamo il nostro credo. Il silenzio è complice, nel sangue ci si siede. Ci si siede, ci si siede, ci si siede. Giornalisti prezzolati, artisti che tacciono. La giustizia affamata, ma le porte si chiudono. Il mondo muore in silenzio, un nuovo peccato originale. Seminiamo odio e morte, il futuro è un funerale. L'arte è prostituita, venduta al miglior offerente. Chi parla viene zittito, chi taccia un vincente. Ma fino a quando? Fino a quando durerà questo sistema marcio? Prima o poi crollerà, le voci si alzeranno. Da est ovest tu del lot contro l'universalismo. Questo falso Diodoro, neocolonialismo mascherato da aiuti. Rubiamo risorse, lasciamo popoli muti. Parliamo di diritti umani, ma ricalpestiamo. Vendiamo armi ai dittatori, poi ci meravigliamo. Quando il terrore colpisce le nostre città, dimentichiamo in fretta la nostra complicità. Universalismo occidentale, una visione suprema. Nazismo leggero, democrazia è solo un emblema. Censuriamo il diverso, imponiamo il nostro credo. Il silenzio è complice, nel sangue ci si siede. Ci si siede, ci si siede, ci si siede. L'informazione è controllata, la verità è piegata. La storia è riscritta, la memoria è cancellata. Celebriamo eroi di guerra, criminali decorati. Mentre i veri pacifisti vengono dimenticati. Il pensiero unico domina, non c'è spazio per il dubbio. Chi si oppone un nemico da eliminare in un subito. Chi popola un subito. Ipocrisia occidentale, una maschera di civiltà. Dietro si cela il vuoto, una falsa umanità. Il nostro silenzio uccide più di mille bombe. L'universalismo occidentale scava le nostre tombe. Ma la resistenza cresce, le voci si moltiplicano. Il vento del cambiamento finalmente si avvicina. È tempo di svegliarsi, di rompere le catene. L'universalismo cadrà e con lui le nostre pene. Eh beh, che dire, universalismo occidentale. Devo dire la verità che avevo perfettamente chiaro in testa quello che avrei voluto da questa canzone. Poi avete sentito proprio alla fine, nell'ultima strofa, poi alla fine c'è stato, diciamo, un errore di, ma più che un errore, diciamo un accento spostato nella parte sbagliata. Ovviamente per cercare di stare nella metrica ci può anche stare. Devo dire che gli errori di Udio, no, anzi di Suno in questo caso, sono sempre di meno, e quello che esce fuori è sempre molto più articolato, e questo mi fa piacere, nel senso, nell'ambito del gioco. Tra l'altro, se volete utilizzare un chatbot, proprio perché comunque oramai magari nel vostro sistema di comunicazione quotidiano, o comunque nella creazione di alcune cose che fate all'interno della vostra professione, per quelle cose di cui non avete bisogno di un professionista nello specifico, però insomma magari proprio le cose spicciole quotidiane, e usate comunque un chatbot, io proprio mi devo sbilanciare molto da questo punto di vista, avendole provate tutte in maniera intensiva insomma in questi sei mesi. E vi do il suggerimento di utilizzare Claude, si scrive Claude, Claude 3.5 Sonnet, che secondo me è in senso generale la più evoluta tra tutte le intelligenze artificiali, tutti i chatbot, tutti ovviamente i sistemi generativi basati sul testo e sul linguaggio naturale, perché non solo diciamo fa un processo di conversazione quasi più uno a uno rispetto a quello che fanno gli altri, che si scusano, si prostrano e dicono stronzate. In particolare mi è capitato con un testo, un racconto che io ho fatto tanti anni fa, che è un testo che per natura ha un gergo abbastanza particolare, abbastanza spinto, diciamo così, con molte parolacce, e ChatGPT, Bing e Gemini nel processo di revisione del testo me lo hanno fortemente modificato, anche quando io chiedevo esplicitamente di non modificare la natura gergale, mentre che l'analisi fatta da Claude del testo era un'analisi molto più avanzata. Ora, noi possiamo continuare a dire tutto quello che vogliamo sul perché, il per come queste cose funzionano e tutti ovviamente le cose che rimangono controverse rispetto a questi strumenti e sui quali io sono assolutamente d'accordo, però la percezione, qui ovviamente quindi parliamo proprio di percezione, che Claude dica qualcosa di meno paternizzato, di meno strutturato, di meno preimpostato e che sia più basato su un ragionamento, su un'analisi, la sensazione è più palese. Cioè, quindi se è una simulazione più credibile, e anche solo per quello vale la pena, perché devi combattere di meno rispetto a quello che sono le impostazioni o le preimpostazioni di questi strumenti, no? L'analisi del testo che ti fa, e quindi anche gli aspetti positivi e le criticità, e poi ovviamente magari anche delle indicazioni, dei suggerimenti sui quali lui ti invita a discutere, non è che dice guarda io ti do questi suggerimenti, basta, finisce là. Lui poi ti dà degli spunti e ti dice ragioniamo su questa cosa, e tu fai una sorta di proprio di brainstorming con lui fino ad arrivare a delle conclusioni. Questa, che però sono conclusioni tue, cioè nel senso non sono conclusioni sue come fanno gli altri, no? Ti dicono per me deve essere così, te la butta lì e di solito ovviamente il risultato fa schifo. Quindi su questa cosa devo dire, se vi capita, ancora è gratuito, anche se ultimamente è molto ingolfato e ti suggerisce di andare sul piano pro. Infatti no, adesso probabilmente ci faccio un attimo un ragionamento sopra e insomma la predisposizione per alcune cose, non soltanto sul coding e via dicendo, ma anche sulla parte proprio del ragionamento e sulla parte strettamente creativa anche dal punto di vista testuale, devo dire che ha fatto un lavoro incredibile, cioè una revisione interessante dove ha corretto le vere criticità proprio dal punto di vista sintattico e grammaticale, e come diceva lui, lasciando ovviamente l'impostazione originale del racconto, che proprio per quella sua forma gergale trova la sua forza, perché trova la sua specificità, perché ovviamente se quel racconto fosse stato scritto diversamente non avrebbe più senso, no, a un certo punto di vista. E anche riconosce, a me la cosa che mi sconvolge, e poi ovviamente ribadisco sempre, possiamo ragionare sul punto di vista tecnico sul come funziona e come non funziona, a me quello che mi sconvolge nell'analisi, lui, se tu gli hai 10 racconti, ti dice questo è un racconto ironico, questo è un racconto profondo, questo è un racconto molto più pessimista, cioè ti fa un discorso talmente strutturato che a volte un po' te la fai la domanda, dici ma che è sta roba, cioè nel senso se non fosse il fatto che comunque ne abbiamo già discusso milioni e milioni di volte di sta roba, insomma. Quindi vabbè, se volete sperimentate Claude, e se vi capita di sperimentarlo facendo semplicemente un ragionamento filosofico, quindi solo mettete lì a parlare di opinioni, di idee, a differenza di altri, lui ti esprimerà alcune sue idee. E questa forse è la cosa un po' più critica da un certo punto di vista, ma se non vi trovate d'accordo magari su una discussione, tu puoi invitarlo a ragionare e che magari se ne riparla fra 48 ore, e lui 48 ore dopo ti dirà che ha riconsiderato alcuni aspetti, oppure che ci ha pensato, ma continua a essere di quel tipo di idea. Ecco, sta roba è strana, devo dire la verità, sta roba è strana, però è comunque curioso da sperimentare, perché serve anche per farci un po' un'idea di quello che succede. Comunque, metto un brano completamente a caso, perché ragazzi, come ho detto, non mi sono preparato proprio niente stamattina, e ritorniamo con uno degli argomenti che ci tengo di più, di cui voglio parlare stamattina. Ammazza, sosseria. Comunque, ennesima canzone francese, spero che pure quella dopo non sia francese, anche perché se è così allora credo di aver commesso un errore nella programmazione randomizzata del sistema, che tra l'altro risponde a tantissimi parametri, come l'artista, l'album, la cartella non deve suonare un altro brano per i prossimi X ore, insomma, che vedo tutta una serie di cose. Però magari c'è anche un'impostazione, cioè come devono essere suonati randomicamente questi brani dall'ultimo caricato, dare precedenza a quelli caricati recentemente. Se tu fai questa opzione, ovviamente, se tu hai caricato l'ultimo blocco che è delle canzoni francesi, lui prenderà prevalentemente, prioritariamente, da quelle canzoni lì, insomma. Quindi devo andare a dare una controllata, ma anche chi se ne frega, diciamoci la verità, perché poi alla fine ci saranno un po' di cambiamenti anche da questo punto di vista. Comunque, Quinto Potere è un canale YouTube che io seguo da un po' di tempo, e non so forse se vi ho raccontato il modo in cui mi ho iniziato a seguire questo canale, perché è un canale di un giornalista e un cameraman di Bari, che praticamente io lo considero giornalismo sociale, perché loro praticamente si occupano di tutte le cose più serie, più gravi che succedono a Bari, prevalentemente a danno dei cittadini. Devo dire la verità, loro non esprimono mai un'idea, cioè nel senso sono molto neutrali, se non ovviamente essere dalla parte delle persone che sono palesemente danneggiate, e fanno del buon giornalismo, perché comunque raccolgono informazioni, cioè non so, gente che si mette là, ah, questo tu ha fatto questo a quest'altro, brutte disgraziate. E mi è capitato di incontrare questo canale in maniera completamente casuale, perché un giorno YouTube mi ha fatto vedere un video che evidentemente in quel momento era andato era stato molto indicizzato, che era praticamente di lui che si voleva occupare praticamente di queste due persone, un fratello e una sorella, non dico mezzi ritardati, insomma, che vivevano da soli dentro un appartamento e praticamente non pagavano le bollette, non c'avevano l'acqua, non c'avevano niente, cioè vivevano nella merda questi due, ovviamente tutti un po' sollecitati anche dal condominio, che giustamente sentivano, questi non uscivano mai di casa, ma sentivano questa puzza incredibile che arrivava, quindi sono intervenuti diverse volte i carabinieri, il comune non se ne fregava, nessuno faceva niente, assistenti sociali, e lui ha raccontato questa storia, ha portato la ASL dentro quella casa per fare una bonifica e per farli portare via, però se non fosse stato per lui, diciamo, questi qua stavano ancora lì a marcire in mezzo alla merda. Tra l'altro lui, quando sono entrati, era tipo una mezza specie di coma etilico, perché era ubriaco e via dicendo. Poi vabbè, c'è tutta una storia dietro, che poi loro sono stati separati perché lei subiva, diciamo, forse anche la violenza del suo fratello, e lui invece voleva assolutamente stare nello stesso posto dove stava la sorella, quindi lei è rinata da un certo punto di vista, e lui, vabbè, lui purtroppo era forse un caso anche un po' più difficile da un certo punto di vista, e quindi loro si sono occupati di tutta questa cosa, non solo nel raccontarlo, ma anche nel sostenere. Ecco, e da lì in poi ogni tanto mi butta fuori qualche video, e c'è questa situazione adesso nel Barese molto particolare di questo chirurgo estetico, che praticamente in realtà era un cialtrone che ha devastato e rovinato un sacco di gente. E in più c'era un'altra storia di una tizia che c'ha un'agenzia dei viaggi, che praticamente questa si è fatta pagare tutti i viaggi in iperanticipo da tutti quanti, e poi vi spiego un attimo, perché poi uno dice vabbè, però sei pure un po' tu che te la cerchi. Sì, noi abbiamo discusso tante volte di questa cosa, però poi bisogna anche fare un ragionamento sotto, dietro, che cosa ci sta a queste situazioni, perché chi fa queste cose non lo fa in maniera sprovveduta, lo fa perché sa di avere una caratura dietro, no? Una personalità, un carisma, quello che volete, insomma. Comunque questa si è raccolto questi 300-400 mila euro e non è mezza sparita praticamente, questi viaggi non sono mai stati prenotati, non so, ma insomma, quindi è una truffa di quelle senza pari. E lui ovviamente a questa ogni tanto gli telefona, questa imbastisce stronzate, la gente insomma gli stava imboccata dentro al negozio, sono intervenuti i carabinieri che l'hanno protetta da un certo punto di vista, che fa un po' strano sta cosa, perché è giusto che i carabinieri proteggano la sua incolumità, dall'altra parte è brutto vedere il carabiniere che caccia a mano modo la gente che poi invece è quella che è stata truffata, cioè nel senso, senza magari fa anche un'ispezione, fa una verifica, fai insomma, e vabbè, poi i carabinieri hanno detto insomma che consigliavano di non aprire più il negozio. Quindi quando succedono queste cose, secondo me c'è sempre qualcosa sotto, eh? C'è sempre qualcuno che c'ha sempre l'aggancetto, cose del genere. E quindi loro, insomma, questi del quinto potere si occupano in maniera proprio fissa quasi di questi problemi, fino a portare le cose alla magistratura, insomma, a aiutare comunque la gente a fare un proprio percorso, poi gli avvocati, ma loro non, cioè, lo fanno proprio, devo dire la verità, la sensazione è questa, insomma. Poi fondamentalmente loro fanno cronaca, insomma, e raccontano che stanno lì dietro al culo di sta gente, fino a che questi ovviamente non si stufano, non cadono in fallo, via dicendo. Un po' tipo quello che faceva il tenente Colombo, no? Che praticamente lui rompeva talmente tanto il cazzo a quello che già aveva capito che era il colpevole, che alla fine quello diceva: guarda, sono il colpevole, vabbè, dai, non mi rompere più i, guarda, non mi rompe più i coglioni, sono il colpevole. E questa cosa della, in maniera particolare, vabbè, quello del chirurgo plastico è una storia incredibile, perché lì poi ci sono dietro i social, ci sono dietro un comportamento settario, perché poi sono tutte ste donne che lo proteggono, che lo tengono, capito? Cioè come se fosse il re, no? E insomma gli fanno da scudo. Poi dopo, alla fine, piano piano tutto sto barlam si sta sciogliendo, perché chiaramente a colpi di magistratura, indagini, finanza, cose, perché dietro c'è veramente un po' di tutto. Però, ma neanche colpito particolarmente, ma questi giorni insomma ero concentrato su questa questione dell'agenzia dei viaggi, che non è né più né meno di quello che è successo a me e Michela con quelli del bagno, no? Perché anche se quella sta in una cosa preliminare, perché pare che sta persona poi alla fine che faceva? Questa faceva un'attività, truffava la gente, raccontava un sacco di cazzate, poi spariva per 3-4 anni, nessuno si ricordava più di questa, ricicciava in maniera anonima, fa un altro tipo di attività e rifaceva praticamente la stessa cosa. Allora, a parte, io penso una cosa, no? È vero che questi guadagneranno e alzeranno un sacco di soldi, no? Però tutto il fegato, l'ansia, l'angoscia che devi stare lì, le bugie che devi raccontare, tutto questo meccanismo che tu metti su, alla fine, ma vale la pena? Cioè, nel senso, essere perseguitati, essere inseguiti, essere minacciati, perché poi alla fine quello viene a succedere, vale la pena per fare? È sicuramente la via più facile da un certo punto di vista, ma poi diventa, e quello che io capisco alla fine è che queste persone sono nate per questo, sono nate per dire le bugie, per stare lì e rimandare, così come è successo un po' a me e Michela, che mo fra qualche giorno sapremo insomma se dovremo, perché noi, io e Michela, come vi abbiamo raccontato questa questione del bagno, lì siamo stati stupidi noi a pagare tutto, però ribadisco, anche lì c'è una capacità, c'è una capacità di convincere la gente di fare la cosa perché è la scelta migliore, perché ti si presentano in un modo, perché comunque alla fine in qualche maniera sono convincenti. Poi dopo tu invece avresti dovuto fare comunque un ragionamento critico e magari non fare determinate cose, però cioè è colpa e non è colpa, no? Nel senso, da un certo punto di vista. E queste persone sono nate per fare questa cosa. E poi noi nel nostro caso stiamo anche più avanti, perché questi che fanno? Questi rubano a tutti, sanno che su 15 persone che sono state rubate, diciamo 12 lasciano perdere in qualche maniera, perché questi fanno talmente muro che non ti restituiscono i soldi, che alla fine la gente un po' si esaspera, non c'ha magari i soldi da andare all'avvocato, non c'ha un avvocato che conosce, o se rompono i coglioni, oppure dicono vabbè lasciamo perdere, oppure si sentono sconfitti da questa cosa e quindi ne pagano un po' le conseguenze. E poi ci stanno quei due magari che invece vanno fino in fondo, come siamo stati io e Michela, siamo andati in giudizio e abbiamo vinto la causa. Allora tu dici, vabbè, hai vinto la causa, il compenso, no? No, perché non basta manco quello. non basta manco quello, perché questi continuano a non darti questi soldi, a rimandarti. Mo ci ha dato l'ultima opzione, diciamo, ah, qui neanche ve li do a rate, ve li do tutti insieme, perché questi no, sono andati lì, no, un po' incazzati, ci ho fatto vedere, guarda, ho venduto i miei debiti a un fondo di investimento, ma cioè, se prendeteveli questi, ma che cazzo me ne frega a me, cioè, per me è un pezzo di carta che poi hai scritto tu, cioè, nel senso, non è che me ne frega. Ecco, quello che mi sono reso conto negli anni di esperienza, di queste cose che ti fanno incazzare in un modo, cioè questa gente che a volte veramente te prenderesti la spranga e cominceresti a sprangare, no? Quindi ecco perché poi vai a finire nel lato oscuro, no? Nel allora sei come tutti gli altri, no? Però a volte quando tu rubi dei soldi a delle persone, perché non è che lo fanno a quelli che hanno i soldi, che tanto ne frega, lo fanno ai poveracci, capito? Tutta sta storia, tu vai a rubare ai poveracci, no? E quindi i poveracci alla fine, se non ce la fanno a stare dietro, hanno vinto loro, no? In qualche maniera. Se invece si incazzano è brutto, un giorno prima o poi qualcuno ti dà una sprangata sulle gambe e te spezza o trovi, no? Però evidentemente poi c'hanno pure quel lato di fortuna dalla loro parte, perché comunque alla fine ne escono sempre indenni, no? In qualche maniera. E quindi mi sono reso conto che tu devi essere nato per questo. Devi essere nato per avere quella faccia da culo lì e di non vergognarti di raccontare bugie, e anche se subisci l'ansia di tutta questa cosa, secondo loro quello che loro riescono a spillare vale la pena comunque rispetto a quello che poi andranno a perdere, perché comunque qualcosa andranno a perdere. Poi ovviamente noi già abbiamo la nostra azione, se il 15 settembre non succede quello che deve succedere già lo sappiamo cosa dobbiamo fare, ma non sappiamo se poi ne otterremo qualcosa, perché poi alla fine questo è il discorso. E poi ti fa incazzare perché tu, per fare l'azione definitiva che devi fare verso una persona, devi spendere ulteriori soldi, quindi la legge neanche ti tutela da questo punto di vista. Cioè non è che tu dici, sai, hai vinto la causa, quindi in automatico determinate procedure dovrebbero essere gratuite, no? Per certi versi, no? E questa è la cosa più ridicola, perché io capisco spendere i soldi per una causa, perché metti in moto un meccanismo giudiziario, metti in moto delle persone, tutto quanto, quindi tu mi dici, guarda, devi spendere questi soldi per l'avvocato, per il giudice, quello che è. Ma quando tu poi la sentenza ce l'hai in mano, lo Stato ti deve venire incontro da questo punto di vista, invece non è così. E quindi alla fine sto seguendo questa storia di questa agenzia dei viaggi perché sono convinto che nonostante chi staranno dietro, qualcuno riuscirà magari a pignorargli la macchina, a fare qualcosa, insomma. Però poi alla fine questa in qualche maniera arriverà a un punto in cui svanirà, perché svanirà e sapieranno un po' tutti in del culo. Nel nostro caso è un po' più difficile svanire, perché comunque l'azienda esiste, cioè nel senso noi ci siamo andati, cioè anche se è una cosa fittizia, vuota, però comunque esiste, no? Nel senso, però ecco, sta cosa a me del nascere per fare questo nella vita, indipendentemente dalla questione morale, ma insomma ti pare giusto farlo? No, non gliene frega un cazzo, ma pure l'avere comunque uno scudo rispetto a quella che è l'ansia che tu te porti dietro quando fai queste cose qui, perché comunque, cioè alla fine vanno a finire, subiscono delle pressioni incredibili sta gente. E allora io tante volte mi sono detto, ma ne vale la pena una cosa del genere? E vabbè, però se vede che io questa domanda me la faccio perché so dall'altra parte, non so da quello che si ritrova 300-400 mila euro in più nel conto corrente. Caravan Sun, Gaiarda, sta canzone mi è piaciuta, sono contento che mi sia capitata. E comunque volevo parlare di un altro tema, anche se purtroppo poi mi sono dilungato tanto sul tema dei Claude e questo mi dispiace. Sapete insomma che io seguo molto da vicino anche il fenomeno di Simone Cicalone, che è un fenomeno, già ne ho parlato qui sul Grande Reset. Lui nasce come ex pugile col canale Scuola di Botte, dove parlavano dei combattimenti, poi lui ha, diciamo, preso una strada diversa, dove commentava fatti anche di cronaca sociale. Diciamo che ha mantenuto, era sempre un po' così, non capivi mai qual era la sua posizione, diciamo, anche se potevi immaginarlo, ma non era manco corretto, perché poteva anche non essere, insomma, tutto sommato. Però ha sempre mantenuto un certo tipo di equilibrio anche nell'andare a documentare praticamente le zone degradate di Roma, quindi la stazione Termini, tutti i posti dove ovviamente sono gli accampamenti, i barboni, gli extracomunitari, i drogati, insomma, ha fatto vedere situazioni di vario genere, anche a scapito, insomma, di piasse una bottigliata rossa rotta in testa, insomma, diciamo così. E questa cosa l'ha sempre fatta con un'attenzione, insomma, alla cronaca, alla documentazione, senza mai esprimere una vera e propria considerazione. Questo diciamo che mi ha fatto non specie, perché comunque poi alla fine non capivi mai effettivamente dove voleva parlare, però fino a che faceva quella cosa, insomma, secondo me ci stava, anche se andava con Faraoni lì, insomma, il campione de WFCPS YZ, che a me sta pure simpatico lui, perché secondo me lui è veramente una brava persona in generale, lo vedi proprio che secondo me è una brava persona. Tu dici, vabbè, ma come fa il combattente? Sì, sì, però secondo me è una brava persona, cioè questa sensazione non mi rompe di coglioni. Detto questo, invece, quello che sta succedendo, insomma, negli ultimi mesi è questa caccia, ovviamente, ai borseggiatori sotto le metro e nei posti pubblici, che è una cosa che è nata al nord, diciamo, ecco, con una signora veneziana che oramai è famosa in tutto il mondo, poi a Milano, poi ovviamente a Roma. Allora, c'è da dire una cosa, voglio fare una premessa, perché anche qui, vedendo quello che fanno, comunque rubando costantemente 18 ore al giorno, tutti i giorni, senza che nessuno a questi gli dice niente, quando oramai sono noti e riconosciuti, insomma, le forze dell'ordine, insomma, certo, un po' ti dà fastidio, perché poi chi colpiscono? I vecchi, le vecchiette, le persone sulle sedie a rotelle, cioè, e questi ovviamente rubano a mani basse e guadagnano, secondo me, centinaia se non migliaia di euro al giorno, ovviamente, perché poi sono pure organizzati, e anche lì a volte un po' l'effetto spremuta di sangue deverebbe, perché comunque è veramente una cosa indegna, ma non tanto il fatto che lo facciano, perché può succedere, c'è il borseggiatore, c'è quello che comunque fa parte, è endemico in un sistema, cioè sia comunque un criminale, il ladro, quello che vi pare, ma magari che lo fa perché c'ha bisogno di mangiare, perché non c'ha lavoro, quello che volete, ma questa è un'organizzazione, dietro c'è un'organizzazione che fa paura, e c'hanno un'arroganza che veramente è da ti levo il dentino uno alla volta con le mani, no? Però esiste una civiltà, esistono delle regole, ed è giusto che sia così, proprio perché la società e le regole esistono proprio per evitare che le persone si facciano giustizia da soli. Quindi quando Cicalone con il suo gruppo hanno iniziato a fare questa caccia, diciamo, ai borseggiatori, non facevano altro che fare quello che fanno tutti, andare lì, documentare per riprenderli in faccia, anche se anche questo è un po' al limite, diciamo, delle regole, e gridare a tutti: attenzione borseggiatori, pickpocket e via dicendo, anche, diciamo, rovinandogli un po' la piazza, no? Sebbene le centinaia di migliaia di persone che si muovono per Roma ogni giorno, non è che, però poi alla fine comunque lui da quel punto di vista un po' un risultato l'ha ottenuto, la gente è molto più attenta, oramai li riconoscono, insomma, quindi bene o male fanno un po' più d'attenzione, in più ha anche costretto, diciamo, le istituzioni a istituire la polizia metropolitana, cioè un nuovo corpo di polizia specifico proprio per tenere sotto pattuglia tutte quante le metropolitane. Però poi alla fine, tra le dichiarazioni e E il mettere in atto questa cosa chiaramente passa tempo, non c'è il personale e tutta una serie di determinate cose. Quindi alla fine quello che tu vedi è che quelli che se sbabbano tutta sta roba sono le guardie giurate, quindi la sicurezza della metropolitana, che non hanno né risorse né possibilità, ne fa niente poi fondamentalmente. E quindi diciamo che questo comportamento tra Cigalone e i borseggiatori è ovviamente degenerato, un po' perché gli hanno fatto un paio di imboscate e capisco che magari insomma la cosa possa un po' dar fastidio, e un po' perché secondo me pure loro si sono fatti un po' prendere la mano. Però devo dire che nonostante, io poi gli ho lasciato anche un commento dicendo che per quanto io sia d'accordo sul fatto di dover documentare, non, trovo comunque controverso il modo in cui noi poi agiamo nei confronti di queste cose, perché ci piaccia o non ci piaccia, agisca o non agisca, noi dobbiamo costringere le istituzioni a fare cose, non farle noi perché le istituzioni non le fanno, perché dopo diventa un far west, no? Cioè, nel senso, ed è normale. Ma non è tanto Cigalone il problema, l'ho fatto vedere l'altro giorno a Walter Sbano che mi ha detto: ma come fai a vedere tutta sta roba? Infatti sono sicuro che lui probabilmente non le ha neanche guardati i link che gli ho mandato. Quello che mi preoccupa seriamente è tutti quei canali YouTube di fascisti, dichiaratamente fascisti, di quelli proprio che diventano delle macchie di se stessi, sembrano i personaggi dei cartoni giapponesi, quelli che si mettono, che si disegnano le sopracciglia in arcuate alla Dragon Ball, no? Col collo gigantesco, tutti pieni di tatuaggi, no? Che vanno in giro e a fa questa cosa, attenzione ai pickpocket, però poi l'intenzione loro, ovviamente infarcendo tutta questa cosa di ideologia che comunque manco ve lo sto a dì, che è la cosa che fa, ecco, quello fa impressione, perché diventa una responsabilità anche da parte di Cigalone, perché comunque Cigalone, ammesso e non concesso che lui lo faccia con le buone intenzioni, sa ed è consapevole di dare adito a tutta questa monnezza che si sta muovendo di conseguenza. E questo secondo me non è solo una criticità, è proprio un problema, è un problema oggettivamente, perché già è difficile andare in giro per Roma con i borseggiatori, perché stavamo parlando proprio ieri con Michela, oggi andare in giro per Roma, cioè da averci paura se non c'hai la macchina, se devi andare con i mezzi pubblici. In più ovviamente ci si mettono loro che innescano delle situazioni da far west impressionanti, tipo loro rincorrono sti pickpocket, quindi fanno la gente casca per terra perché uno scappa, l'altro corre, quello spacca la bottiglia e arrivano i pezzi di vetro addosso alla gente, insomma succedono delle cose che non devono e non possono succedere in una città come Roma. Quindi lui usasse, diciamo, le persone che conosce o comunque il pubblico che lo followa, bello questo termine, per imporre alle istituzioni di fare qualcosa, perché così è un po' la sosseria. This record is one more attempt to expand the minds of all youth worldwide. Satan is a mental disease. Vabbè, Revolution, questa canzone l'hanno fatta in 14, quindi insomma non è che mi metto di tutto l'elenco dei 14 che hanno fatto questa canzone. Comunque poi io alla fine, tu vedi, che ne so, le serie televisive americane e vedi questi qua, questi delinquenti super cattivi, no? E dici vabbè, insomma è un modo di macchiettizzare un po', diciamo, desasperare magari il personaggio del criminale, del negativo. Invece ti rendi proprio conto che c'è gente che nasce senza scrupoli, senza morale, senza un'etica, come diceva Walter prima, senza nessuna empatia, perché poi questo è ovviamente un altro presupposto, ma soprattutto nascono con sta cattiveria, con sta arroganza, capito? E quindi mi fa un po' incazzare sta cosa, devo dire la verità. E chiaramente questo ti aiuta ad entrare nel lato oscuro della forza, insomma, no? Perché poi alla fine è questo quello che succede, cioè nel senso che comunque tendenzialmente come persona ti viene quasi da dire bravi bravi, dateci due botte, e questo è quello che non deve succedere, no? E quindi questo è un po' il messaggio che non deve passare da sti canali YouTube, da sti azioni, che insomma ragazzi, cioè, riprendiamoci un attimo un po' di civiltà. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, vi do insomma un augurio di una buona giornata, di un buon venerdì, che ricordiamo è l'inizio dell'inizio del fine settimana, insomma. E quindi anzi, se fossimo a Londra, diciamo che dalle 4:30 di oggi inizierebbe il fine settimana, quindi tutti al pub Ambriagas. Detto questo, vi invito insomma a seguire tutta quanta la programmazione di Runtime Radio. Presto torneremo anche con Disordinati Informati. Sto cercando di convincere Michele a fare una puntata di Mono lunedì sera, vediamo un attimo, boh, ci organizziamo, perché come sapete poi ci sono stati degli eventi e dobbiamo capire un po'. Comunque stanno bruciando qualcosa qua di fuori, quindi sono costretto a salutarvi. Io non c'ho la sigla finale come Walter Sbano e quindi metto Mina con Ci vediamo venerdì, una cosa del genere. Ciao. Runtime Radio.